Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ci siamo lasciati, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, la scorsa settimana già sapendo, insomma, che cosa stava per succedere oggi. Come saprete, naturalmente, a fine giornata, se lo sapete, ve lo racconto io, insomma, sarebbe un po' strano. Matteo Renzi ha ricevuto l'incarico, quindi, a formare un nuovo governo dal Presidente della Repubblica Napolitano. Che cosa ha detto fra le varie affermazioni, fra i vari annunci oggi? Renzi ha detto: fare politica e corrispondere ai sogni delle persone. Questa sua missione ambiziosissima che ha definito diventa ancora più ambiziosa, quindi prendetelo in parola e dite secondo voi quali sono i sogni, le aspettative che voi vorreste che Renzi esaudisse, quali sono i vostri sogni. C'è come sempre due canali per i vostri messaggi, o sulla pagina Facebook di Effetto Notte, Effetto Notte-Roberta Giordano, per riconoscerlo, oppure i messaggi al 349-238-6666. Intanto il suo sogno si è avverato, quindi oggi, anche se ha detto che accetta con riserva, insomma un po' rituale questa espressione, si è avverato, è diventato, diventa premier, diventa presidente del Consiglio, via. E poi l'altra soddisfazione che ha avuto oggi è la vittoria in Sardegna del candidato del centro-sinistra, Francesco Pigliaro. Quali sono quindi invece le cose che voi vorreste chiedete a Renzi di realizzare, visto che, insomma, si preannuncia, e anzi da tempo, così pieno di energia e voglia di fare? Bene, mentre voi ci pensate, prima di passare ai vari ospiti e di approfondire alcuni temi, io vi racconto la giornata in sintesi. Nuovo governo, il premier incaricato Renzi annuncia subito legge elettorale e lavoro, poi una riforma al mese, e nel pomeriggio ha dato l'addio a Firenze. Unione Europea, il commissario Olli Rehn dice: il nuovo governo tagli il debito e sblocchi la crescita, e l'agenzia Fitch conferma l'outlook dell'Italia resta negativo. Le elezioni in Sardegna, vince il centro-sinistra con Francesco Pigliaro. E poi notizie di poco fa, l'ex presidente francese Jacques Chirac è stato ricoverato all'ospedale americano di Neuilly, nei pressi di Parigi, lo riferiscono fonti vicino al governo francese. Olimpiadi di Sochi, nuovo fermo per Luxuria vestita arcobaleno, al parco ha urlato: gay è ok. Dunque partiamo dall'incarico conferito questa mattina da Napolitano a Matteo Renzi per formare il nuovo governo. Renzi che nel pomeriggio ha dato un saluto commosso a Firenze. Sentiamo come si è svolta la sua giornata. Un incarico con riserva, quello accettato da Matteo Renzi, salito al Colle intorno alle 10:20, quasi due ore di faccia a faccia con il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, poi l'annuncio del segretario generale del Quirinale Donato Marra. Quindi le parole di Renzi, che non ha nascosto le difficoltà che lo attendono. L'impegno che immaginiamo è quello di un allungamento della prospettiva politica di questa legislatura, che poi è quella che si colloca nell'orizzonte naturale previsto dalla Costituzione, e pertanto prima di qualsiasi discussione è fondamentale che le forze politiche della maggioranza, per quello che riguarda il governo, e di tutto l'arco costituzionale per quanto riguarda il profilo delle riforme, siano ben consapevoli dei prossimi passaggi. Quanto agli obiettivi dell'esecutivo, l'impegno di Renzi prevede da febbraio a maggio 4 capitoli di intervento: riforme, lavoro, pubblica amministrazione e fisco. In altri termini, abbiamo intenzione di lavorare in modo molto serio sui contenuti prima di qualsiasi discussione. Una grande attenzione dunque ai contenuti del patto di coalizione, che necessariamente ha fatto capire il premier incaricato prenderà qualche giorno anche per la definizione della squadra di governo. Renzi da domani avvierà le consultazioni con le forze politiche, tra mercoledì e giovedì il giuramento, da venerdì la fiducia in Parlamento. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Quindi questi i vari passaggi, ma nel pomeriggio, come detto, c'è stata la commozione a Firenze per l'addio in Consiglio Comunale. Comunque vadano le cose per i prossimi anni, vi auguro di mantenere questo orgoglio e bellezza del fatto che fare politica non è un qualcosa di sporco, non è un qualcosa di brutto, non è un qualcosa da evitare. Fare politica significa davvero corrispondere ai sogni delle persone. Grazie a tutti. E a seguito dell'incarico a Renzi, reazione positiva di Piazza Affari, che chiude in rialzo, il FTSE MIB segna un 0,11%, anche Bruxelles segue le mosse di Renzi con un certo ottimismo, mi pare. Sergio Nava? Sì, buonasera Roberta, buonasera agli ascoltatori. Ciao. E allora, l'Europa, come dire, resta alla finestra. L'impressione è che sia poco disposta a sottoscrivere cambiali in bianco, soprattutto in tema economico. E su questo è stato molto chiaro questa sera, questo tardo pomeriggio, il commissario europeo all'economia Mia Olli Rehn, sentiamo un passaggio. I'm confident that the Italian democratic institutions will facilitate. Alludendo alla volontà espressa da Matteo Renzi di ridiscutere il patto di stabilità, in particolare la soglia del 3%, Rehn ha controbattuto: l'Italia è un paese profondamente europeista, confido che continuerà a rispettare i trattati che comprendono quello di stabilità e crescita. In serata, tra l'altro, Rehn ha anche incontrato il ministro dell'economia uscente Saccomanni per discutere la questione dell'aggiustamento strutturale da realizzare mediante la spending review. Teoricamente c'è tempo fino a oggi, fino a questa sera, per consegnare a Bruxelles i documenti in grado di provare un taglio pari a 3 miliardi. Di questo incontro al momento non si sa ancora nulla su come sia andato, si sa solo è stato molto breve. Rehn ha anche ribadito che l'Italia deve ridurre il debito molto alto e sbloccare il formidabile potenziale di crescita, dinamismo e innovazione delle imprese. Anche il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem ha sottolineato come la stabilità politica è importante, l'Italia deve migliorare la competitività dell'economia. Poco fa, 8:30, il presidente dell'Europarlamento Martin Schulz invece ha detto: Renzi non può che essere un eccellente europeista. E per tornare all'argomento che hai introdotto tu, Roberta, cioè i mercati, bisogna dire che allora lo spread ha chiuso a 193 punti base, quindi molto bene. Bene anche il rendimento dei BTP decennali, in calo verso il 3,6%. Lo stesso Piazza Affari ha chiuso positiva, leggermente, moderatamente positiva, ma oggi era anche chiusa Wall Street. Però c'è l'avvertimento di Fitch: attenzione, l'outlook non l'abbiamo cambiato, per l'Italia resta negativo, quindi attenzione alle mosse che l'Italia farà col prossimo governo. Grazie Sergio Nava. E dalla Sardegna arriva intanto una buona notizia per il centro-sinistra: la vittoria del candidato Francesco Pigliaru. Il professore vince con un più 5% sull'ex governatore Cappellacci. Flop invece per la scrittrice Michela Murgia, che non entra nemmeno in consiglio. Ma sentiamo Pigliaru. Ma lasciamo che ognuno si faccia la sua opinione. Io credo che quello che è successo a livello nazionale in questi giorni non abbia influito granché, francamente. Penso che ciò che ha fatto Matteo Renzi a qualcuno sia piaciuto, perché hanno visto molta decisione nel cercare di fare un governo, un buon governo per l'Italia molto rapidamente. A qualcun altro ha dato un po' di fastidio il metodo, quindi io penso che alla fine queste cose non abbiano contato granché qua in Sardegna. Era contento, era molto contento. A questo punto direi che avrò un governo amico e questo faciliterà le cose, ne sono certo. E poi ne parleremo in modo più approfondito dopo. Passiamo all'Electrolux, che ha presentato oggi ai sindacati il piano per lo stabilimento di Porcia per il 2014-2017, che prevede investimenti per 32.316 esuberi calcolati sullo schema delle 6 ore più 2 di solidarietà, 298 operai su circa 1.000 e 18 impiegati su 64. Non ci sarà comunque riduzione dei salari. E domani a Roma, Piazza del Popolo, senza imprese non c'è Italia, è la mobilitazione generale delle imprese promossa dalle 5 organizzazioni aderenti a Rete Impresa Italia. Sentiamo allora il microfono di Vincenzo Loddo, il presidente di Confesercenti, Marco Venturi. Abbiamo bisogno di affrontare una serie di nodi fondamentali, a partire dalla riforma fiscale, e si può fare con un intervento sulla spesa pubblica. Dobbiamo affrontare il tema della semplificazione, anche qui la burocrazia costa circa 30 miliardi all'anno alle piccole e medie imprese. Abbiamo la partita del credito, anche questa importantissima per gli investimenti e quindi per poter creare sviluppo, ma anche per la tenuta delle stesse imprese. Questo, insieme ai costi dell'energia, insieme alla questione del credito, sono i temi forti che ci spingono a fare questa iniziativa. E siamo alla cronaca: oggi è stato dirottato un aereo a Addis Abeba, Roma, dal copilota, che poi è stato fatto atterrare l'aereo a Ginevra, tutti salvi i passeggeri, c'erano 140 italiani. È stato arrestato il dirottatore, prima di atterrare ha provato a chiedere asilo nel paese elvetico, a terra poi ha tentato la fuga dal finestrino ma è stato arrestato. E c'è un nuovo tassello della Tangentopoli scaligera: è stato arrestato oggi l'ex vice sindaco di Verona, l'accusa di corruzione. Gli appalti di una società con ombre di 'Ndrangheta, le consulenze alla moglie per non trovare intralci nei lavori pubblici e quella casa in uno dei quartieri più eleganti ristrutturata dalla stessa ditta impegnata nelle principali opere della città. Le denunce anonime di un corvo trovano riscontri nell'inchiesta della procura e in carcere finisce per corruzione e abuso d'ufficio l'ex vice sindaco di Verona Vito Giacino, ex braccio destro di Flavio Tosi già nella prima amministrazione, passato dal PDL alla Lega. Ai domiciliari pure la consorte Alessandra Lodi, giovane avvocato presso il cui studio bisognava transitare, scrisse un anonimo in una lettera diventata poi un esposto, per evitare che i lavori fossero accantonati. Aveva infatti anche la delega per l'urbanistica e poi per l'edilizia privata a Giacino, ed è qui che concentrava gran parte del suo potere, origine di quelle accuse che lo avevano portato già il 15 novembre alle dimissioni alla notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati. La procura precisa che Tosi non è coinvolto e che nulla riconduce al sindaco leghista di Verona, ma questa indagine è un nuovo pezzo del terremoto giudiziario che ha già travolto l'azienda municipalizzata AGEC. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E arriviamo così a Sanremo, comincia l'avventura del festival tra l'incognita Grillo, atteso per domani, e le polemiche sui costi sollevate dalla Corte dei Conti. Vi ricordate la scorsa settimana? Tranquillo su entrambi i fronti, però il direttore di Rai 1, Giancarlo Leone, presente oggi alla prima conferenza del festival. Sentiamolo intervistato al TG1. Per la prima volta il festival, come l'anno scorso, fu a costo zero, quest'anno avrà un saldo attivo. Supererà 2 milioni e mezzo di euro il ricavo che farà il Festival di Sanremo grazie a un contenimento di costi e una forte crescita dei ricavi commerciali da pubblicità. L'annuncio arrivo di Beppe Grillo qui al Festival. Ma noi siamo contenti, felici che venga, e ovviamente tutto quello che farà fuori dal festival non ci riguarderà. Siamo certi che se verrà e ci farà piacere vedere lo spettacolo, ovviamente ci farà fare lo spettacolo come è giusto che sia. Lui è, oltre che un grande leader politico, anche un uomo di spettacolo, quindi non siamo preoccupati, e al contrario noi stiamo lavorando proprio per fare il miglior festival possibile. E se lo dice lui, in chiusura le Olimpiadi Invernali di Sochi, con Maria Pia Valls Beltrana. Ciao Maria Pia, direttamente lì da Sochi, dalla Russia, ma oggi più che gare c'è stato un altro tipo di protagonismo, è vero Maria Pia? Sì, direi assolutamente che l'attenzione dallo sport si è invece riversata su temi diciamo un pochino più politici. Oggi Vladimir Luxuria, che già ieri era stata neanche arrestata o fermata, è semplicemente stata identificata in seguito appunto alla sua presenza all'interno del Parco Olimpico con la bandiera dei colori che rappresentano il simbolo degli omosessuali. Anche oggi è stata lei protagonista di un altro episodio, di un'altra diciamo tentativo di sfida a Putin, perché all'interno del Parco Olimpico ha sfilato vestita sempre con i colori appunto della rainbow, inneggiando allo slogan "essere gay ok" davanti alle telecamere degli inviati delle Iene, che sono le persone che l'hanno accompagnata qui a Sochi proprio per realizzare un servizio televisivo. L'ultima notizia è che appunto lei avesse già comunque il biglietto di rientro previsto per domani, quindi verrà scortata portata in aeroporto e rimandata in Italia come persona non gradita, visto che comunque era già sotto stretta sorveglianza dopo l'episodio di ieri. Oggi ci ha tra virgolette ritrovato proprio all'interno del Parco Olimpico. Ricordiamo tra l'altro che il CIO, cioè l'organizzazione, il Comitato Olimpico Internazionale, aveva predisposto un'area riservata alle manifestazioni di questo tipo all'inizio dei giochi, quindi ancora prima che cominciassero le gare, perché il tema della difesa dei diritti omosessuali era sulla bocca un po' di tutti. Vladimir Luxuria ha comunque non utilizzato questa zona preposta per le manifestazioni, ma ha preferito diciamo sfidare un pochino così quelle che sono le regole comunque previste, e quindi ha fatto questa specie di sfilata dimostrativa proprio all'interno del Parco Olimpico prima di una partita di hockey. Bene Maria Pia, io ti ringrazio, e in realtà Maria Pia Valls Beltran, di gare importanti per gli italiani non ce ne sono state, no? Non ci sono stati... Questa mattina avevamo grandi aspettative per quanto riguardava lo snowboard maschile, dopo che ieri la giovanissima Michela Moglioli era stata protagonista e quasi centrava il bronzo per questa competizione. Non si sono tenute le gare, ma perché ci sono stati problemi di visibilità, perché il maltempo ha infatti fatto annullare quella di snowboard maschile, quella del... Quindi nulla insomma di rilevante per oggi. Grazie Maria Pia, nulla di rilevante per oggi, però appunto dicevamo Vladimir Luxuria, che ho cercato più volte tra l'altro in giornata, ma c'era sempre la segreteria russa, e quindi ho detto gliel'hanno sequestrato questo cellulare, oppure starà lì che non lo può usare. Comunque l'aspettiamo per domani, grazie Maria Pia. Grazie adesso, a te, ciao. Dopo questo racconto sintetico della giornata, adesso c'è la viabilità, aggiorniamo chi sta viaggiando. Vi ricordo che c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, o i vostri messaggi che stanno arrivando tantissimi al 349-238-6666. Visto che ha lanciato questa sfida Renzi, la politica è cercare di corrispondere ai sogni delle persone, vediamo quali sono i vostri sogni e chiaramente insomma le vostre aspettative, le cose concretamente fattibili, se Renzi con la sua maggioranza sarà in grado di realizzarle. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo insieme. Allora, prima di passare al primo ospite di questa sera, naturalmente parleremo di politica tra pochissimo, vi ricordo però quali sono stati i fatti principali della giornata. Naturalmente il nuovo governo con Renzi, che è stato incaricato da Napolitano, annuncia subito legge elettorale e lavoro, poi una riforma al mese. Nel pomeriggio ha dato l'addio a Firenze. Unione Europea, il commissario Le Rhin dice il nuovo governo tagli il debito e sblocchi la crescita. Intanto l'agenzia Fitch conferma l'outlook dell'Italia, cioè le previsioni per l'economia italiana, resta negativo. Le elezioni in Sardegna, vince contro Cappellacci il centro-sinistra con Francesco Pigliaro. E per le Olimpiadi di Sochi, nuovo fermo per Luxuria, vestita arcobaleno al parco, ha urlato gay e ok. Adesso naturalmente affrontiamo allora la questione del giorno, lo sarà per diverso tempo, insomma, finché verrà formato questo governo, finché si capirà un po' che strada prende questo nuovo governo di Renzi. Claudio Cerasa, ciao. Ciao. Caporedattore del Foglio. Allora, dicevo alle ascoltatrici e ascoltatori, stanno arrivando moltissimi di messaggi, che Renzi ha detto oggi che accetta con riserva, ma credo, Claudio, che questa sia giusto un'espressione rituale, nel senso che se lo prende, se lo tiene stretto questo ruolo di Presidente del Consiglio. Senza alcuna riserva. Ecco, appunto, si dice così, ma in realtà non è così. E poi ha detto questa cosa veramente oltre la sua ambizione, sappiamo che ambiziosissimo, lo riconosce tranquillamente eccetera, ha detto fare politica e corrispondere ai sogni delle persone, ha detto legge elettorale, lavoro, riforme. Che ti sembra? Gli ascoltatori stanno cominciando a dire quali sono i loro sogni da realizzare, le loro aspettative, poi li leggerò. Ritieni che sia un po' imprudente? Ma no, diciamo che intanto fare una bella lista di desideri è sempre utile per dare una prospettiva al proprio progetto, quindi poi magari alcune cose non si potranno fare come le ha detto Renzi, anzi sono abbastanza sicuro che alcuni tempi che Renzi ha promesso non sarà possibile rispettarli. Faccio un esempio su tutti: la legge elettorale, io scommetterei un caffè con qualsiasi ascoltatore che non si riuscirà a fare entro febbraio, che si farà a marzo, però insomma dettagli, cose di pochi giorni. Se Renzi riuscirà a fare quello che ha promesso oggi, beh, giù il cappello, perché promette di fare in 5 mesi cose che in 20 anni non sono fatte, quindi come dire, se ci dovesse riuscire, altro che mandraghe. Detto questo, Renzi ha alcuni problemi ovvi che si intravedono sulla sua strada. Primo è di far dimenticare il peccato originale con cui è nato questo governo, perché ricordiamo, Renzi si sta portando dalla seconda a terza repubblica con i metodi della prima repubblica. Quindi lui che diceva niente giochini della prima repubblica, no? Se si può sottolineare. Quindi, però oggettivamente quello è un peccato che si può tranquillamente scontare nel momento in cui si fanno alcune cose. L'altra vera sfida, che vedremo se riuscirà a vincerla in questa settimana, riguarda la squadra di governo. Qui c'è un problema che nessuno capisce. Si va per strada, ai bar, nei ristoranti, la gente ti chiede, ma scusami, ma come può Renzi pensare con più o meno gli stessi ministri, la stessa maggioranza, di fare cose che prima Letta non riusciva a fare? E questa è la grande domanda, il grande tormentone. Tu che rispondi? Io rispondo in due modi. Rispondo dicendo che cercando di entrare nella testa di Renzi c'è una prima psicologica, che McLuhan diceva che il medium è il messaggio. Renzi ci sta dicendo che invece il messaggio è il leader, quindi sarebbe sufficiente cambiare il leader per far viaggiare la Smart a un'alta velocità. La seconda questione invece è legata a quello che Renzi può fare, cioè Renzi deve avere uno strumento, che è la legge elettorale, per fare una cosa molto semplice: minacciare il governo di andare a votare nel caso in cui qualcuno si metta a contrastare le sue riforme. Quindi quella è l'unica arma che davvero ha. E poi c'è un'altra che sarà più complicata da utilizzare, ma è quello della, diciamo così, di fare delle leggi in uno stato di emergenza praticamente. Quindi a volte cercando anche di scavalcare il Parlamento, cercando di fare dei provvedimenti, i famosi decreti ministeriali. Quindi voti di fiducia, voti di fiducia, decreti legge. Ma voti di fiducia credo che ci possano essere anche delle scelte precise per scavalcare in qualche caso il Parlamento, poi più avanti si capirà meglio questo concetto. Senti, Claudio, Toti oggi, il consigliere, da qualche tempo consigliere personale di Berlusconi, ha detto proprio quello che dicevi tu, insomma, che vari gli attribuiscono questo peccato originale. Dice: il governo Renzi nasce col peccato originale di essere stato concepito da 136 persone nella direzione del PD, cioè non è stato parlamentarizzato, non c'è stata la sfiducia in Parlamento, insomma, che molti si aspettavano, che il PD spiegasse perché è successa questa cosa in Parlamento. E poi dice: poi è un programma ambizioso, 4 riforme epocali in 4 mesi, ci chiediamo come potrà realizzarlo con la stessa maggioranza di Letta, anche se sai, a parte la maggioranza appunto è quella, e poi sentiremo tra poco Alfano che cosa ha detto proprio alla fine della scorsa settimana, tra i ministri dovrebbe rimanere al Ministero degli Esteri Bonino, poi gli altri si fanno tanti nomi, no? Da Gino Strada, il patron di Emergency, alla Salute, da Roberta Pinotti alla Difesa, che adesso è sottosegretaria, Livia Pomodoro, che è stata presidente del Tribunale dei Minori di Milano, attuale presidente del Tribunale alla giustizia. Sì, dunque, credo che per andare a studiare e capire un po' il modo in cui Letta cercherà di non trasformare il suo governo in un Letta bis, che poi è quello il rischio, sarà un po' legato alle figure che Renzi metterà al Ministero del Tesoro, all'economia, che come dire, come i vostri ascoltatori sanno, è il ministero più importante, quello che dà l'identità al governo. Renzi cosa sta cercando di fare? Questa è una sfida ambiziosa, vediamo se ci riuscirà, ma cercando di mettere un politico a guidare questo dicastero. Io capisco che la gente spesso ha la memoria corta, però vorrei ricordare che negli ultimi 20 anni della tutta la Seconda Repubblica è soltanto una volta che c'era stato a guidare il Ministero dell'Economia un politico, se vogliamo escludere Tremonti, che è quasi tecnico, è stato con Visco ai tempi del governo D'Alema, poi abbiamo sempre avuto dei tecnici, poi la sinistra stessa ha sempre messo dei tecnici a guidare l'economia, quindi in qualche modo si è consegnata per questioni diciamo di prassi, per questioni di equilibri complicati con il sistema europeo, comunque ha sempre cercato di farsi rappresentare da un tecnico. Se riuscisse a mettere un politico, Renzi farebbe una mossa importante, perché sostanzialmente rifletterebbe direttamente la politica del Ministero dell'Economia, la volontà del Primo Ministro, che non tanto quindi soltanto la volontà di espressa da alcuni vincoli esterni. Poi ovvio bisogna triangolare con il Presidente della Repubblica, che chiede che ci sia continuità con le precedenti politiche economiche, bisogna triangolare soprattutto con il Presidente della BCE, Mario Draghi, che chiede che ci sia una persona con la quale poter dialogare e triangolare per uscire in maniera sobria e soft dalla famosa austerità. Ci sono tanti piccoli vincoli, però se Renzi riuscirà a mettere un politico, quindi una persona sulla quale si possa riflettere direttamente la sua voglia di riforme, quella sarebbe un bel colpo. Il nome che si sta facendo, possiamo dirlo, è quello di Graziano Del Rio. Queste ore, questo è un attuale nome... ministro degli affari regionali, che è il suo fedelissimo, poi, no? Attuale ministro degli affari regionali è Renziano Doc, è una persona competente, stima la Presidenza della Repubblica, che al momento ricoprirebbe la casella di sottosegretario al Presidente del Consiglio, che però chissà. Sa che possa fare qualche altra cosa. Quindi ministri all'altezza, però a proposito della sua maggioranza, la maggioranza che Renzi dovrà comunque gestire, sentiamo che cosa ha detto proprio venerdì o giovedì Alfano, leader del nuovo centrodestra, quindi dell'altro grosso partito insieme al PD che sta nel governo, a parte Scelta Civica. Sentiamo. Noi siamo indisponibili ad aderire ad un governo politico che abbia un connotato di sinistra e siamo altrettanto indisponibili ad aderire ad un governo politico che si chiami di centrosinistra, perché noi siamo il centrodestra, siamo il nuovo centrodestra, faremo valere in qualunque governo le istanze del centrodestra e se ci renderemo conto che non ci sono o non ci saranno le condizioni politiche per far valere le nostre istanze, le istanze di quegli artigiani, dei commercianti, di quel grande ceto medio italiano che sta soffrendo per la crisi e che si sta sempre più assottigliando, bene, se noi non potremo essere gli avvocati dentro il governo del grande ceto medio italiano, noi diremo no alla nascita del nuovo governo. O si fanno grandi cose, o per fare piccole cose è meglio andare al voto. lo dico con chiarezza a Matteo Renzi, lui ha posto due ipotesi: o un governo con una grande ambizione o il voto subito. Noi siamo pronti a entrambe le ipotesi, siamo pronti ad andare al voto perché siamo forti dei sondaggi che ci rendono capaci di superare ogni sbarramento e siamo forti della possibilità di riorganizzare una coalizione di centrodestra che si candida a vincere avendo in noi l'elemento determinante. Capito Claudio Cerasa, quindi è stato chiarissimo, avevo Faraone venerdì scorso, Davide Faraone della segreteria di Renzi, adesso farà parte naturalmente del suo entourage, che ha detto ma sì, lo fa per darsi un po' di coraggio, in realtà poi troveremo, ma se non dovessero essere in sintonia, hai sentito che Alfano, la famosa arma che tu hai detto che potrebbe usare Renzi per compattare la maggioranza, quella di andare al voto, dice noi siamo pronti. Sì, allora io ricordo con grande divertimento il giorno in cui durante la presentazione del libro di Bruno Vespa Alfano e Renzi si trovarono per la prima volta di fronte a un'ampia platea e Alfano fu malmenato da Renzi come se fossero su un ring con un pugile bendato e l'altro invece che era caricato a pallettoni, quindi la chicca tra i due non è esattamente eccezionale. Su questo l'arma di Alfano è un'arma scarica, non, gli ultimatum di Alfano sono un po', fanno un po' sorridere perché un leader politico di un partito che ha un suo senso nel momento in cui riesce a costruire una storia diversa rispetto a quella del partito di Berlusconi, è ovvio che serve tempo per poter far capire agli elettori che Alfano è qualcosa di diverso da Berlusconi, serve del tempo, non può andare a votare adesso Alfano, sarebbe molto probabilmente la fine di Fini, di tante altre persone che hanno cercato di sfidare il bipolarismo, quindi sarebbe costretto comunque a tornare alla casa del padre. Quindi come dire, Alfano sta cercando un po' di alzare il prezzo, sta, detto in maniera esplicita, cercando di avere non due ministri ma tre ministri nel governo. Detto proprio così in concreto. E sta cercando poi di vincolare in maniera severa il presidente del Renzi a strutturare un patto di coalizione simile a quello che in Germania qualche mese fa, quindi un piano studiato a tavolino precedentemente e che sia un modo per tracciare un percorso, mentre Renzi ovvio che vuole e deve trovare gli accordi con gli alleati, però molto probabilmente vorrà andare un la po' per la strada di fare le cose comunicandolo molto prima. Senti Claudio Cerasa, ti leggo proprio velocissimamente, abbiamo ancora un minuto, ti leggo velocissimamente alcuni dei tanti messaggi che stanno arrivando a proposito di sogni da mandare a Renzi, no? Un ascoltatore che non si firma dice: meno tasse, meno spesa pubblica, meno leggi, meno politici, meno sbirri, meno Stato, questo è il mio sogno, tale rimarrà. E poi vorremmo che Renzi falcidiasse il diabolico carrozzone degli sprechi che nessuno finora ha toccato. Mi dispiace per Matteo, dice un altro, ma quali che siano i miei sogni non ce la farà. Antonio da Bari, stai serena Roberta, che era quello che aveva detto, no, la parodia, la parafrasi di quello che Renzi aveva detto a Letta quando ha detto stai sereno Enrico che non prendo il tuo posto, dice il mio sogno sarebbe quello di poter finalmente votare, quindi qualcuno che vuole andare al voto velocemente. Un altro, il mio sogno è che la legge elettorale fosse un sistema elettorale con collegi uninominali e votazione secca all'inglese, per i parlamentari sarebbe così più importante la loro essenza e storia invece che il simbolo e il partito. Un altro, anche lui su Duccio, sulla legge elettorale, sembra che diano molta importanza le persone comunque alla legge elettorale, a volte viene nei temi ancora prima del lavoro, ce ne sono molti anche su questo argomento, però insomma sembra che o Renzi l'ha fatta ingigantire l'importanza della legge elettorale, oppure effettivamente le persone sentono la necessità, insomma, di una riforma. È stato un po' l'arma con cui Renzi ha aperto un barco all'interno della vecchia maggioranza, quindi la legge elettorale poi di fatto è una riforma che interessa a tutti, abbiamo capito in maniera forse più uno strumentale che la vecchia non funzionava, che ne occorre un'altra, che quella disegnata dalla Consulta non funziona bene, quindi c'è necessità, c'è voglia di avere un'altra legge elettorale. Detto questo, secondo me Renzi avrà la possibilità e anche forse il dovere nei suoi primi due o tre mesi di fare alcune delle cose che sono state le cose sui calcolatori, cioè taglio della spesa pubblica, abbassare le tasse sul lavoro, sulle imprese, sul lavoro, cercare anche di dare dei segnali sul la battaglia anticasta gli sprechi delle istituzioni, quindi cercherà di miscelare almeno queste idee. Beh, immagino alcuni provvedimenti così, un po' di immagine con alcune cose concrete. Un po' più concrete. Grazie Claudio Cerasa, intanto staremo a vedere, caporedattore del Foglio. Grazie. Ciao, buon lavoro. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, sempre Roberta Giordano con voi, sempre i vostri messaggi che arrivano alla pagina Facebook di Effetto Notte, anche al 349-238-6666, sms. E tra poco torneremo a parlare di Renzi, con chi se ne è occupato a lungo e continuerà probabilmente a occuparsene, ma intanto vi ricordo quali sono stati i fatti principali del giorno. Naturalmente quelli inerenti al nuovo governo, con Renzi che punta su riforme e lavoro, ma la squadra è un rebus per il momento, consultazioni al via, resta soprattutto il nodo dell'economia. Per l'Unione Europea il commissario Olli Rehn dice che il nuovo governo deve tagliare il debito e ci devono essere sbocchi per la crescita, mentre l'agenzia di rating Fitch conferma per l'Italia una previsione che resta negativa. Le elezioni in Sardegna con la vittoria per il candidato del centrosinistra Francesco Pigliaru, e poi all'estero l'ex presidente francese Jacques Chirac ricoverato in ospedale, non si conoscono ancora le sue condizioni di salute. E le Olimpiadi di Sochi, c'è stato un nuovo fermo per Vladimir Luxuria, vestita a arcobaleno nel parco orlato gay. Ok. Saluto Silvia Ognibene. Buonasera Roberta. Ciao Silvia, che è scrittrice, giornalista, autrice di un libro che mi fa pensare che abbia scritto ogni bene di Renzi in particolare, no? Con Alberto Ferrarese, Silvia, il Matteo il Conquistatore, quindi il titolo mi dice già molto, credo che Renzi sarà molto contento di questo libro, lo vedo già spuntare in tutte le vetrine. Silvia, era uscito in realtà uno o due mesi fa, però è adesso che tappezza le varie librerie. Non è una geografia, vero questa? Agiografia, non no. La geografia. Non è una geografia, è soprattutto un racconto del Renzi a telecamere spente, se così vogliamo dire, scritto da me, dal collega Alberto Ferrarese, che lo seguiamo da anni in quanto appunto cronisti fiorentini, e quindi l'abbiamo visto sin da quando ha mosso i primi passi, e per questo abbiamo potuto raccontare alcuni aneddoti, alcune caratteristiche proprio del personaggio, pensando che essendo avviato ad una carriera brillante, come poi si è dimostrato, probabilmente anche chi non era fiorentino ma aveva curiosità verso questo personaggio avrebbe voluto conoscere qualche dettaglio in più su un personaggio che comunque sia, nel bene e nel male, sembrava destinato a caratterizzare la scena politica nazionale da lì a breve. Su questo senz'altro, probabilmente già quando faceva gli scout, a quanto pare, secondo molte testimonianze, insomma. Assolutamente sì, il buongiorno si vede dal mattino, ecco. E quindi era abbastanza intuibile, sì, il titolo felice, questo è il merito dell'editor che ha curato il libro, quindi una intuizione felice, ma anche motivata da appunto caratteristiche del personaggio che si sono viste sin dagli albori. Senti Silvia, quindi tu sarai pronta, visto che avete ripercorso questa irresistibile ascesa politica di Renzi, appunto dagli scout fino poi alle primarie e alla presidenza del Consiglio, e però voi ne rivelate, come dice, alcuni retroscena, degli aspetti inediti, punti di forza, punti di debolezza. I punti di forza un po' si conoscono, ma se vuoi poi, se ce ne sono di alcuni inediti, ce li puoi tranquillamente dire, ma i punti di debolezza, visto che queste cose evidentemente se le avete scritte si possono dire, quali sono? Ma i punti di debolezza soprattutto a Renzi, questo lo dice qualche osservatore che poi noi citiamo nel libro, manca un po' il metodo talvolta, perché è un personaggio che è caratterizzato da una grandissima forza, una grande energia, ambizione, lui stesso lo ammette e la rivendica anche come un pregio, un lato positivo, però la sua grandissima energia si traduce talvolta in una mancanza di organizzazione e metodo, e questo va bene quando tu hai comunque una squadra molto forte, molto coesa, che riesce a seguirti, e spesso appunto il suo punto debole si colloca in chi lo circonda, ma non per qualità, proprio per difficoltà a tenere il suo passo infaticabile e appunto in una mancanza di metodo, per cui ecco, questa è la sua prima vera prova importante, perché la politica, quella diciamo da amministratore, no, di chi governa, richiede anche grandissimo senso dell'organizzazione e tantissimo metodo. Vedremo se in realtà era soltanto una ipotesi da detrattore o se veramente questa sua mancanza di metodo si farà risentire. Lo scopriremo. Senti, invece, come aspetti inediti, quindi né positivi né negativi, ma che riguardano il suo modo di essere e la sua vita, quali trovate più interessanti, valgono la pena di essere rivelati qui a Effetto Notte? Sì. Io credo proprio appunto la sua capacità di lavorare per un numero di ore che credo sia veramente fuori dall'ordinario. Infatti, a questo proposito, forse questo è un dato davvero inedito, volevo chiederti che si mangia la mattina, Matteo Renzi? Senti, la mattina non so, ma posso dirti che quando lui ha le sue super giornate di lavoro intenso riesce a nutrirsi anche soltanto di Kinder cereali e banane. Ah, ecco, quindi, diciamo, energetici. Ha un rapporto con il cibo che forse un dietologo giudicherebbe abbastanza discutibile, ed è per esempio normale per lui fare tre cose nello stesso momento, cioè parla con un giornalista mentre risponde a un sms, guarda la Fiorentina in televisione e chiede a un assessore se ha fatto la delibera a Petombini in Viale Guidoni. Ecco, questo è un po' il suo modo, appunto una grande energia talvolta un po' incasinata. E vediamo, a proposito dell'energia incasinata, non so se sai che oggi tu eri presente oggi al suo addio al Consiglio Comunale, sì, a Firenze. Fra le varie cose che ha detto, almeno che sono riportate poi dalle agenzie di stampa, è fare politica non è una cosa brutta, non è una cosa sporca, è corrispondere ai sogni delle persone. Brava. Sì. E quindi si sono scatenati anche qui i messaggi, sia gli sms che i messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Diversi li ho letti prima, alcuni te li leggo adesso, sì, e così magari poi glielo dici direttamente. Allora, Donata scrive: vorrei vedere una politica attenta al vero interesse nazionale, competente, capace di affrontare il dissenso e di andare avanti nonostante critiche e pali tra le ruote di chi non ha interesse al cambiamento, perché sono tantissimi agguerriti e arroganti. Poi Rosetta dice che il secondo nome di Renzi sia il genio della lampada. Ciro: un sogno semplicissimo per riappacificarsi almeno in parte con l'opinione pubblica sarebbe quello di mettere un tetto accettabile, 3.000-4.000 euro netti mensili, alle migliaia di indennità che dobbiamo corrispondere parlamentari, assessori, eccetera eccetera. Paolo: vorrei che abbassasse un po' gli stipendi mega galattici che prendono i nostri governanti. Alberto: distruggere il PD e permettere la nascita di un vero partito che rappresenti un'alternativa di sinistra vera, senza se e senza ma. Vittorio: ricambio e selezione nuova della classe dirigente. Sono tantissimi, quali cogli così che pensi che possa veramente realizzare Silvio ogni bene? Allora, i sogni da realizzare sono tantissimi, credo ci sia un sogno per ogni ascoltatore, un sogno per ogni italiano, perché ciascuno ha il proprio, però credo che il sogno collettivo, se dovessimo trovare un filo rosso nei desideri dei nostri concittadini in questo momento, sia legato al lavoro, all'andamento della crisi e della situazione economica ed occupazionale del paese. Su questo Renzi è atteso ad una prova molto importante, come diceva anche prima Cerasa, la cifra, la cartina di tornasole dei governi in genere la si dà attraverso la scelta della casella del tesoro, questo per tutta una serie di motivi che gli ascoltatori di Radio 24 certo, conoscono molto bene. E credo che la sua ipotesi che è circolata in queste ore di mettere un politico anziché un tecnico in quella casella sia già un bel segnale. Non sarà facile per Renzi, perché oggi Olli Rehn ha detto: io sono fiducioso sul fatto che il governo italiano, il nuovo governo italiano rispetterà vincoli in termini di riduzione della spesa e del debito e di obiettivi di crescita. Sappiamo tutti che la coperta è molto corta e che Renzi certe regole dovrà rispettarle, perché per quanto lui abbia detto in più occasioni durante la sua campagna elettorale per le primarie che ad esempio il vincolo del 3% in termini di rapporto fra deficit e PIL è anacronistico e quindi deve essere rivisto, perché lo ha dichiarato in più occasioni, è vero anche che questo vincolo in Italia, come sappiamo, alla regola d'oro è stato inserito in Costituzione. La coperta è corta e quindi non sarà semplice per lui rispettare gli impegni europei e gli impegni di contenimento del debito e della spesa e trovare risorse per ridare fiato all'occupazione e alla crescita. Sarà un bel impegno, una bella sfida. Intanto grazie Silvia Ognivene. Ciao, grazie, buona continuazione, ciao. Buona serata. Ciao. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Arrivato il nostro momento dell'Europa, l'incontro con l'Europa, visto che si vota a maggio il 25 alle elezioni europee. Parliamo delle città del futuro, dalla mobilità intelligente all'inclusione sociale, passando per l'efficienza energetica. Queste sono le sfide che le città europee devono affrontare. Le città sono il volano economico d'Europa, così sostiene il commissario europeo per gli affari regionali Jonas Hahn, che oggi e domani a Bruxelles ha riunito gli amministratori locali dei 28 paesi europei nella conferenza Città del futuro per investire in Europa. Europa 24 notte. Verso le europee. Le città devono diventare il posto migliore in cui vivere. È questo in sintesi l'ambizioso obiettivo della prima agenda urbana d'Europa, quella che esperti e amministratori locali di 28 paesi stanno cercando di pianificare qui a Bruxelles. Del resto, due terzi degli europei vivono in insediamenti urbani, ma solo un terzo di loro dichiara di essere soddisfatto della propria città. E dunque sostenibilità energetica, inclusione sociale, crescita a basso impatto, occupazione, mobilità intelligente, trasporti efficienti, innovazione. Questi dovranno essere gli ingredienti delle città del futuro, città che, spiega il commissario europeo per gli affari regionali Jonas Hahn, dovranno lavorare insieme su progetti comuni. And it is no longer possible that everybody is implementing individual projects without any correlation or linkage to a strategy. E tutto questo per raggiungere gli obiettivi che l'Unione Europea si è prefissata per il 2020, dalla mobilità all'ambiente sino all'inclusione sociale e alla riduzione della povertà. E intanto un primo passo è stato compiuto con l'assegnazione diretta alle grandi città metropolitane di almeno il 5% dei fondi strutturali, cifra che però, secondo il sindaco di Roma Marino, è ancora troppo poca cosa. Oggi abbiamo compiuto un passo importante, questo fatto confermato dal commissario Hahn, che avremo almeno il 5% dei fondi strutturali europei da utilizzare direttamente nelle nostre città senza altri intermediari, penso che sia un fatto importante, ma ho proposto che questo avvenga con un metodo preciso, e cioè di disegnare insieme agli altri 27 sindaci delle capitali europee un'agenda, e ho invitato gli altri 27 sindaci a Roma in autunno durante il semestre di presidenza europea, in modo che questo 5% diventi un volano economico per fondi da attrarre dall'Europa, fondi da attrarre dai privati e fondi da attrarre come prestiti dalla Banca Europea degli Investimenti. Un invito che a stretto giro il commissario europeo ha accettato, aggiungendo che la prima bozza dell'agenda urbana europea potrebbe vedere la luce proprio nella città eterna, anche perché, ha scherzato, il Campidoglio è il palazzo del comune con la vista più bella del mondo. Of course, immediately accepted. Standing at the balcony, looking at the Forum Romanum is unbeatable. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Bruxelles. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E adesso invece parliamo dell'altra notizia politica del giorno, cioè l'altra soddisfazione per il centrosinistra, che è la vittoria in Sardegna del competitor, diciamo, di Cappellacci, che aveva guidato finora appunto la regione, che è Francesco Pigliaro. Ne vorrei parlare con Anthony Muroni. Ciao Anthony. Ciao. Ciao, benvenuto, direttore dell'Unione Sarda, del quotidiano sardo. Anthony, quindi alla fine le percentuali come si sono chiuse? Pigliaro ha preso un 5% in più di Cappellacci. No, adesso ultimamente con gli aggiornamenti Il vantaggio di Pigliaro si è ridotto a 2 punti percentuali. Ah. Abbiamo 1724 sezioni su 1836. Pigliaro è al 42,2, Cappellacci al 39,9, cambia poco, sono 16.000 voti di differenza, e con questi 16.000 voti Pigliaro ha conquistato la guida della regione Sardegna. Comunque, quindi c'è stato un margine, in realtà è vero che è andato a votare... Come lista addirittura il centrodestra ha preso più voti del centrosinistra, dunque Cappellacci è stato punito dal voto disgiunto. Mentre Michela Murgia, la scrittrice nota che si era candidata con una lista indipendentista, ha preso, si è fermata al 10%, quindi non entra neanche in consiglio. Sì, al 10% con 71.000 voti totali. Anthony, comunque come leggi questa scarsissima affluenza? Mi pare ci sia stato il 52% in Sardegna, quindi poco più della metà della popolazione è andata a votare. Sì, diciamo che rispetto alle elezioni del 2009, in termini assoluti, i due poli tradizionali hanno perso circa 300.000 voti, circa 200.000 li ha persi Cappellacci rispetto ai 470.000 che aveva preso 5 anni fa in occasione della sua elezione, e un centinaio, 100.000 circa li ha persi anche Pigliaru rispetto a quelli che aveva preso Soru sconfitto 5 anni fa. Questo significa che ben 300.000 sardi in termini assoluti hanno dimostrato di essere molto delusi dalla politica, quasi che da 5 anni a questa parte il mondo sia veramente cambiato. Diciamo che questi voti non sono poi andati tutti alle possibili alternative. La Murgia, come dicevamo, ne ha intercettato circa 70.000, gli altri 220.000 sono invece le persone che non sono andate a votare. E comunque la Sardegna ritorna al centro-sinistra. Se dovessi fare un ritratto di Francesco Pigliaru... Francesco Pigliaru è un professore universitario che ha fatto benissimo come assessore in occasione della giunta Soru, fu per 2 anni assessore al bilancio, persona molto seria, molto preparata, si dimise perché in disaccordo con Soru dopo 2 anni in assessorato, però lui ha le caratteristiche per far bene, una persona tra l'altro molto posata, che non si lascia trascinare né in positivo né in negativo, è una persona molto solida e dunque ha le caratteristiche che in questo momento servono. Io naturalmente ho la speranza, io e tutti i sardi di buona volontà hanno la speranza che lui possa comunque fare riportare quella serenità e quella trasparenza che serve per portare fuori questa regione da secche nelle quali è imbrigliata da 10-15 anni. Non sarà facilissimo, guarda, non ci siamo ancora ripresi nemmeno dall'alluvione di novembre, le case sono ancora, le case, le strade e i ponti sono ancora in quelle condizioni tragiche che tutta Italia ha visto con i reportage fatti dai colleghi delle televisioni nazionali. Questo è, diciamo che ha, a mio avviso, anche contribuito a ridurre la presenza degli elettori al voto. Ecco, la Sardegna vive un profondo disincanto, una profonda rassegnazione, perché nessun indicatore va bene, c'è bisogno di gente per bene che con fatica cerchi di rimettere la barra dritta. Senti, ha detto quali sono naturalmente le sue priorità, no? Che cosa intende affrontare? Ma lui ha presentato un programma molto snello. Il primo punto è investire molto sull'istruzione e sulla formazione, cioè ridare la speranza ai giovani e anche ai cassi integrati di 40-45 anni che hanno perso il lavoro, dunque una grande opera di formazione, perché senza l'istruzione, senza la formazione professionale non si può certamente cercare di vincere la sfida col mercato, con un mercato che tra l'altro è globale, dove si salvano solamente le eccellenze. E poi naturalmente ha parlato di un futuro industriale diverso, l'addio alle grandi industrie e il tentativo di ridare a tutti i territori della Sardegna una vocazione che sia un po' più compatibile con quelle che sono le caratteristiche dei sardi, soprattutto puntando su agricoltura e turismo. Senti, Anthony, ti faccio sentire un attimo una delle dichiarazioni che ha fatto Pigliaru, sentiamo. Ma lasciamo che ognuno si faccia la sua opinione, io credo che quello che è successo a livello nazionale in questi giorni non abbia influito granché, francamente. Penso che ciò che ha fatto Matteo Renzi a qualcuno sia piaciuto, perché hanno visto molta decisione nel cercare di fare un governo, un buon governo per l'Italia molto rapidamente, a qualcun altro ha dato un po' di fastidio il metodo, quindi io penso che alla fine queste cose non abbiano contato granché qua in Sardegna. Era contento, era molto contento. A questo punto direi che avrò un governo amico e questo faciliterà le cose, ne sono certo. Anthony Moroni, qui in questo minuto che ci rimane, lui dice mi impegno, eccetera, affronterò naturalmente tutte le priorità, però il governo amico sarà un buon appoggio. Devo dire che è un renziano della prima ora, cioè sostenne Matteo Renzi anche nelle precedenti primarie, quando Renzi venne sconfitto da Bersani, e dunque chiaramente è solo contento del fatto di trovare a Palazzo Chigi adesso un suo amico, una persona con la quale si intende a meraviglia. Diciamo che dal punto di vista così della congiuntura, credo che questo possa aiutarlo molto. Bene, anche questo insomma comunque è un elemento importante. Grazie Anthony Muroni, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buon proseguimento e complimenti. Grazie. E adesso ci fermiamo, perché qui diciamo è finita la grossa parte di Effetto Notte, poi ritorno giusto per ricordarvi come sempre i fatti principali.